Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Bentornato Spezia. Ma dai, è tutta una baggianata. La verità è che gli insegnanti sono foraggiati dai sindacati e picchiano sempre i piedi. Devono essere quelli che sono intellettualmente superiori agli altri e ogni volta che bisogna fare qualcosa mettono sempre mille paletti per questo motivo. Ora il problema è la scuola. Nella scuola c'è confusione. Secondo me c'è confusione perché la fate voi, forze politiche e giornalisti. Aspettate la riapertura e poi fate le critiche. Insomma, non è che sia molto d'accordo, perché in questo momento la confusione ce l'ha chi deve riorganizzare la partenza dell'attività scolastica, come per esempio i dirigenti scolastici, in alcuni casi i presidenti di regione, i sindaci. Quindi non è che stiamo facendo confusione noi, è che le direttive sono arrivate tardi, ci sono tutta una serie di problemi da risolvere e forse ci si poteva pensare prima, si poteva pianificare in un altro modo. Sul secondo ascoltatore, quello che se la prende con gli insegnanti sindacalizzati e contro i sindacati degli insegnanti, sicuramente c'è anche un elemento di quel tipo, però ci sono dei fronti di preoccupazione che vanno presi seriamente, così come all'inizio della pandemia prendemmo sul serio le preoccupazioni del mondo degli operai che in alcuni casi si rifiutavano di presentarsi in fabbrica. Se c'è qualche fronte di preoccupazione va segnalato. Queste persone vanno rassicurate anche. E grazie per il bentornato. È la seconda parte di 24 Mattino, è quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:19 minuti e 15 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, il numero per intervenire è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci siamo. Allora, i quotidiani. Qua andiamo su due o tre linee diverse. Alcuni aprono parlando di tamponi e della Covid e della questione dei contagi. Lo fa per esempio La Stampa, che parla di un piano nazionale per fare tamponi a tappeto, è quello proposto dal professor Crisanti. Lo fa Il Messaggero, che parla di tamponi sui voli Roma-Milano. Lo fa La Verità, che dice: sapevano tutto già dal 12 febbraio ma non hanno fermato l'epidemia. Altri quotidiani aprono sulla scuola, lo fa il Quotidiano Nazionale, a scuola con l'autocertificazione il titolo, lo fa il Corriere della Sera, in classe senza mascherina. L'altro grande fronte è quello dei migranti. L'apertura della Repubblica è dedicata a questo, è all'ondata record di sbarchi e all'emergenza a Lampedusa. Lo fa Libero. La carica dei 500, immigrazione senza freni, siamo invasi, titola il Quotidiano. Altri si dedicano al referendum. Con il taglio i parlamentari lavoreranno di più e meglio. È un'intervista all'economista Roberto Perotti sul Fatto Quotidiano ad aprire il giornale di oggi. Mentre invece il giornale ci parla della svolta di Berlusconi su quello che definisce il referendum truffa. Il cavaliere all'attacco, il taglio dei parlamentari come lo vogliono i grillini limita la democrazia. Il Sole 24 Ore del lunedì, il Sole 24 Ore, lo sapete, è un giornale, è un settimanale sostanzialmente, si dedica al bonus per il bonus energia, il bonus sì o no, chi vince il 110% dalla villetta al condominio, gli 8 casi tipo, si parla delle liti fiscali e si parla degli uffici semideserti, la nuova crisi per mense, trasporti e pulizia. Ne avete sentito un assaggio in GR24, tra poco ci torneremo. Iniziamo però, come sempre, la nostra rassegna stampa da qualcosa di diverso, a qualcosa di taglio diverso, ed è una storia di cronaca, quella sulla quale vi voglio portare, perché è una storia di cronaca, ma è una storia di cronaca che accende i riflettori su un problema che più volte abbiamo sottolineato. Siamo a pagina 13 della stampa, il pezzo lo firma Grazia Longo ed è una storia che ha a che fare con un anziano con due figli disabili. Spara ai figli disabili. Ormai ho 88 anni, nessuno mi aiuta. Si chiama Giuseppe Pecora, appunto, 88 anni, e racconta Grazia Longo è crollato sotto il peso dei suoi tormenti e ha ucciso a colpi di pistola il figlio minore Ivan, 47 anni, portatore di un grave handicap, e ferito al braccio destro Francesco, 51 anni, affetto da un'invalidità meno accentuata del fratello, e ha sparato anche alla moglie, rimasta fortunatamente illesa. Una tragedia che si è consumata l'altra notte tra le mura di un appartamento nel quartiere Soccavo, alla periferia di Napoli. È stato lo stesso pensionato a chiamare la polizia, ha detto: correte, ho ammazzato i miei figli. E poi ha raccontato ai poliziotti: non ce la facevo più a tirare avanti all'idea che Ivan e Francesco continuassero a stare così male. Chi poteva aiutarli a parte me, che però ormai sono diventato anziano? Ed è la domanda che si fanno molti genitori, senza arrivare ovviamente a queste conclusioni terribili ed estreme, molti genitori di ragazzi, di bambini disabili. Racconta ancora Grazia Longo che il tema è la carenza di fondi e di mezzi per l'assistenza. Secondo i dati Istat, i disabili con meno di 65 anni che vivono da soli sono 38.000, mentre quelli che vivono coi genitori anziani sono 89.000, per un totale di circa 127.000 persone. I fondi per la legge dopo di noi, lo ricorderete, quella sul sostegno ai portatori di handicap dopo la scomparsa dei loro genitori o di chi ne fa le veci, sono inadeguati. Nel triennio 2016-2018 la norma è stata finanziata con 184 milioni di euro, una cifra insufficiente per quella che è più di un'emergenza. Presenta qua la stampa anche un'intervista a Toni Nocchetti, che è un medico e presidente della Onlus Tutti a Scuola, il quale parla esattamente di questo. Il dramma della solitudine, il punto di arrivo di un welfare che non vede i disabili e le loro famiglie. Ancora più significativo che avvenga in una regione che, a causa delle profonde disuguaglianze sociali, riesce a destinare risorse ai disabili almeno 10 volte in meno di altre regioni del nord, ed è appunto la Campania. C'è poi tutta la questione scuola, ci torneremo più avanti, poi come avrete sentito all'interno della nostra programmazione, Alessandro Milan avrà anche un appuntamento tutti i lunedì mattina con la nostra Maria Piera Ceci per parlare esattamente di questo, quindi torneremo a parlare e ne parleremo anche noi, lo faremo con Elena Bonetti, la ministra alle pari opportunità, e poi con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. C'è la questione scuola, si diceva, e qua vi voglio portare innanzitutto anche qua su una storia, perché è la storia con la quale il giornale decide di aprire e ci porta a pagina 9, perché è una storia che è un piccolo segnale di come potrebbero andare le cose, ed è discretamente preoccupante a dire il vero. Un positivo entra a scuola, chiuso l'istituto, riaperto. Siamo a Verbania, ovviamente non ha riaperto la scuola nella sua maniera tradizionale. Un professionale, racconta Francesca Angeli appunto a pagina 9 del giornale, che diligentemente aveva già ripreso l'attività di formazione finanziata con i fondi europei del programma operativo nazionale, il PON, ma ieri sul sito dell'istituto è comparsa la comunicazione del dirigente scolastico Vincenzo Maselli. Sospensione delle attività didattiche a partire da lunedì 31 agosto 2020 per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali, come previsto dalle attuali normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. Un intervento necessario, prosegue la nota, perché un utente entrato recentemente in istituto è risultato positivo al virus Covid-19. La preside si riserva di comunicare al più presto la data di riapertura, e questo apre un mondo su quello che potrebbe essere il problema della riapertura, perché si riparte, ma si riparte in che modo? Con il rischio che anche un solo positivo porti di nuovo e subito alla chiusura della scuola per un certo periodo di tempo, quantomeno per il tempo della sanificazione. Ma quanto dura e quanto tempo ci vuole per questa sanificazione? La presenza di un positivo, scrive Francesca Angeli, a scuola è un evento altamente probabile, ed è per questo che servono regole stringenti non soltanto per la gestione di un eventuale infetto, ma anche su come contenere al minimo le conseguenze, in modo che non si debba chiudere la scuola e tornare alla didattica a distanza per tutti. Mascherine, distanziamento, banchi posto, ragazzi suddivisi in piccoli gruppi in ampi spazi, misure che dovrebbero evitare appunto la chiusura di un intero istituto nel caso si riscontrasse un positivo. E poi c'è tutta la questione banchi, che è meravigliosa, è meravigliosa. I banchi a rotelle, ne abbiamo discusso, ci abbiamo ironizzato, alcuni istituti già li usavano da tempo. E però, quelli che sono stati ordinati pare che non siano a norma, ma ne parliamo tra un attimo. Cento della capienza vuol dire, signori, se non volete far rischiare i vostri figli, portateli voi a scuola. Ecco, vuol dire scaricare le responsabilità e soprattutto le famiglie a fare altri numeri dopo quelli che abbiamo fatto l'inverno scorso. Così dunque uno dei nostri ascoltatori su questa capienza all'80% per i mezzi, nei mezzi pubblici, è l'accordo che dovrebbero raggiungere in giornata governo e regioni. La questione dei banchi, eccola qua. Ne troviamo traccia sulla Stampa e sul quotidiano La Verità. Iniziamo dalla Stampa. Il rebus delle sedie con le ruote non classificate per le classi. E la cosa affascinante è questa, è che era già contenuto nel bando messo appunto dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Si tratta di prodotti non ancora classificati ai fini della normativa UniN nella categoria dei banchi scolastici. In sostanza, le sedute innovative con le rotelle non sono prodotte per essere usate nelle classi delle scuole primarie e secondarie, almeno secondo la normativa italiana ed europea. E quindi, teoricamente, appunto, non potrebbero essere usate all'interno delle classi. In realtà ci sono scuole che già le usano, però non si sa se sono veramente le stesse. Lo dice chiaramente Salvatore Giuliano, che è l'ex, sempre su questo pezzo sulla Stampa, firmato da Niccolò Caratelli, che è l'ex sottosegretario all'istruzione ed è tornato a presiedere l'istituto Maiorana di Brindisi. A me nessuno finora ha chiesto di attestare nulla. Le nostre sedie sono omologate e a norma, le usiamo da 9 anni, ma non so se queste in produzione siano le stesse che abbiamo noi, dice Giuliano. Rincara la dose La Verità a pagina 3 con Carlo Tarallo, il quale racconta esattamente questo, perché poi tutto trae origine dalle dichiarazioni di Emidio Salvatorelli, presidente di Vastarredo, che proprio ieri alla Stampa aveva parlato di questo. Che io sappia non sono a norma questi banchi specie per l'uso da parte dei minorenni. Salvatorelli guida un'azienda che si è aggiudicata una fornitura di banchi monoposto, ma quelli senza rotelle, e intervengono anche gli ortopedici, che hanno bocciato i nuovi banchi, inadeguati per la struttura fisica dello scheletro degli studenti. Secondo gli specialisti è stato un errore non consultare gli esperti prima dell'acquisto. Finalmente sarebbero stati acquistati arredi che privilegiano la preservazione negli anni dell'integrità corporea degli studenti. E certo, c'è tutta questa questione dei banchi, ovvio, per la questione di distanziamento Covid. E però il tema, come ben sapete, è molto più largo. E su questo fronte, a pagina 25 della Repubblica, trovate un bel editoriale di Ezio Mauro, tra l'altro in una pagina nella quale c'è la vignetta di Bucchi, che ha sempre questo modo sognante, per così dire, di raccontare le cose. C'è un bambino su un banco monoposto, senza rotelle. Dietro si vedono le stelle, il bambino ha un casco e c'è scritto il primo bambino lanciato nella scuola. E non è male per raccontare questa fase. Ezio Mauro inizia così: mentre i partiti e i loro leader parlano d'altro e non si sa bene di cosa, la società aspetta il giorno della verità. Il 14 settembre, data della riapertura generale delle scuole, anche se 6 regioni pensano di posticipare, dopo il ciclone Covid che ha amputato l'anno scolastico, cambiando i riti, i diritti e i doveri di almeno 2 generazioni, terremotando gli equilibri delle famiglie. Nessuno ha ancora calcolato il costo di questo buco sociale, culturale, formativo, psicologico che si è spalancato per mesi nel cuore dell'età adolescenziale italiana, scrive Ezio Mauro. Se cerchiamo un luogo nel quale si è già avverato lo slogan più abusato di questi tempi, nulla sarà più come prima, questo luogo è sicuramente la scuola. E nel raccontare quello che sta succedendo intorno a questo tema, chiude Mauro dicendo che la riapertura in tempi di Covid è certo un rischio necessario, ma è anche un'occasione da non perdere per uno sforzo straordinario, indirizzato a rimettere in piedi la scuola in tutto il paese, colmando disuguaglianze territoriali, scompensi, ritardi, responsabilità e portando l'Italia a livello dei sistemi più avanzati. Il rilancio del paese comincia esattamente da qui, dove si costruisce il dopo, ossia dove si costruiscono appunto le nuove generazioni. Così Ezio Mauro, a dire il vero, molto condivisibile, a pagina 25 del quotidiano La Repubblica. Mentre si discute di riapertura delle scuole, si discute anche di riapertura degli stadi, eh? Attenzione. Polemicone tra la Lega e il governo, con il ministro Spadafora che starebbe approntando un nuovo protocollo. E anche qua il grande tema della capienza. Riaprire gli stadi in un range, chi dice la Lega, tra il 25 e il 40%. La pagina è pagina 8 del quotidiano nazionale. Alberto Pieri ci racconta che è arrivata una doccia fredda. Chi si aspettava di vedere qualche spettatore sugli spalti già alla ripresa del campionato, prevista per il 19 settembre, resterà sicuramente deluso. Per ora non se ne parla. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico tirano il freno sulle aspettative del club di Serie A. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, ha pochi dubbi. La priorità è riaprire la scuola, poi si vedrà. Sul tavolo del CTS sono già arrivati alcuni dossier per l'apertura degli stadi, e appunto quello della Lega Calcio prevede partite a numero chiuso con gli stadi occupati dal 25 al 40% delle rispettive capienze. E però, ci sono su questo molte perplessità. Vedremo se la discussione andrà avanti, ci sembra francamente minore rispetto all'importanza di quella sulla scuola. L'altro tema centrale di queste ore, già vi dicevo prima che è il tema sul quale aprono il quotidiano La Repubblica e anche Libero, se non vado errato, è il tema dei migranti, dei nuovi sbarchi che ci sono stati a Lampedusa, di un'isola al collasso e che proclama lo sciopero generale. Le cronache ovviamente le trovate un po' dappertutto, però su questo vi voglio segnalare due commenti. Il primo è di Luigi Manconi, che a pagina 19 della Stampa parla di Lampedusa come di una ferita dell'Europa. a sottolineare ancora una volta quello che ci dicevamo prima, che ogni estate ci ritroviamo nella stessa condizione, quest'anno tra l'altro una situazione resa ancora più complessa dalla vicenda Covid, e però ogni anno si promette di intervenire e ogni anno Lampedusa, più o meno in questo periodo, oppure durante agosto o comunque quando il mare è calmo e i barconi possono ripartire, si trova appunto in questa situazione. Dice Manconi che insomma si sofferma sulle polemiche sulla nave che l'artista Banksy ha voluto finanziare, dicendo è inutile prendersela così, ci saranno sempre provvidenzialmente filantropi e uomini di mare, organizzazioni non governative, giuristi, intellettuali, anonimi cittadini che soccorreranno chi sta per affogare, che offriranno riparo ai fuggiaschi. D'altra parte va compresa e trattata con saggezza l'insofferenza che si manifesta tra gli abitanti di Lampedusa e tra tutti coloro che patiscono il peso di una convivenza assai malamente gestita tra residenti e migranti. E il problema è proprio questo, no? Il come viene gestita questa cosa. E allora andiamo sul giornale, andiamo da Vittorio Macioce a pagina 4, il quale, da un giornale di centrodestra e con una posizione abbastanza netta sui migranti, dice proprio questo, cioè il tema è che qua non c'è una posizione. Quella che chiamano accoglienza non è accoglienza, è una roulette russa. La regola è che non si può arrivare in Italia di nascosto su imbarcazioni di sventura, pagando tutto quello che hai a mercanti di carne umana, con la speranza di trovare una terra migliore dove cercare fortuna, con il marchio del fuorilegge. Se sopravvivi ti mettono in un recinto affollato in attesa del tuo destino. C'è chi aspetta, chi dopo anni trova davvero una nuova casa, chi fugge, chi deve ricominciare tutto da capo. Pochi vengono rimpatriati. L'Italia ti dice che questo tiro di dadi è vietato, ma poi lascia che avvenga nel nome dell'accoglienza universale. Questo governo ritiene che la politica delle frontiere chiuse, bandiera del salvinismo, sia un reato contro l'umanità. Non condivide neppure le scelte di Marco Minniti, ministro dell'interno del governo Gentiloni. Il governo di fatto è vicino alla visione delle ONG, scrive Macioce. Allora questo è il punto. Dovrebbe dirlo, dovrebbe costruire su questo architrave culturale la politica sui flussi migratori. Aprire i porti, abolire il reato di clandestinità, avvertire Merkel e Macron che l'Italia non è più la frontiera meridionale dell'Europa. È difficile? Moltissimo. È costoso? Certo. È un'utopia? Forse. È però una scelta sincera, coraggiosa e coerente. Se ci credi, lo fai. Non ha l'odore dei sepolcri imbiancati, non puzza di belle parole mentre si gioca alla roulette russa. Non è la politica degli Hunger Games, ossia i giochi della fame, appunto. Citando ovviamente il titolo di una celebre serie di libri e di film. Cosa ancora? Ancora su Covid, fatemi andare su due cose molto, molto rapide, farei. Innanzitutto il Messaggero, che ci dà due notizie interessanti. Il primo è che c'è un piano della Regione Lazio per fare il tampone a tutti sui voli tra Roma e Milano, con l'idea poi di estendere anche questa ipotesi a livello internazionale. Una sperimentazione che sta per essere avviata sui passeggeri in partenza da Fiumicino, e se il sistema reggerà si passerà alle rotte internazionali, a cominciare dagli Stati Uniti, ci racconta Mauro Evangelisti. Messaggero che ci racconta anche che il 50% dei romani, di chi lavora a Roma, proseguirà con lo smart working. E l'impatto dello smart working o dell'home working, del lavoro da casa, su tutte le attività, invece ce lo racconta bene il Sole 24 Ore, come avete sentito poco fa in GR24, con Michela Finizio e Valentina Melis, a pagina 2, uffici deserti, KO, trasporti, mense e servizi. Per dare la misura, il settore delle pulizie prevede un calo del fatturato del 15% per il 2020. La ristorazione collettiva, quindi le mense, di oltre un terzo, il 34%. Il trasporto pubblico locale del 17%. I servizi immobiliari, un calo tra il 5 e il 10%. Questo è il quadro che ci viene raccontato appunto da Michela Finizio e Valentina Melis. Prima di andare al traffico, poi trovarci con Giorgio Gori, il sindaco di Bergamo, col quale ovviamente parleremo di scuola, non solamente di quella, ma prevalentemente di scuola, perché come sapete da queste parti abbiamo fatto, non dico una battaglia, ma abbiamo posto l'attenzione molto forte sul fatto che si potesse evitare per una volta di andare a votare nelle scuole, di utilizzare le scuole come seggi, rischiando di farle chiudere a una settimana dalla riapertura. Ebbene, Bergamo su questo fronte ha preso un'iniziativa che ci pare interessante. E però, prima di andare a chiudere, di andare al traffico, è una toccata agli esteri. Innanzitutto menzione d'onore per il quotidiano La Stampa, che a pagina 16 e a pagina 17 ci porta su due fronti sotto una sola testatina: diritti negati, e ci porta in Bielorussia da una parte e in Turchia dall'altra, perché la protesta in Bielorussia non si ferma, nonostante negli ultimi giorni dai quotidiani e poi un po' in generale dalla stampa sia stata, dalla stampa italiana quantomeno, sia stata dimenticata. A firmare il pezzo che si trova oggi sulla stampa pagina 16 è Sasha Romanova, chi è la responsabile delle testate online d'opposizione Kiki.org. Giovedì il regime bielorusso ha arrestato l'imprenditore cofondatore dei due giornali, Alexander Vasilievich. Nei giorni scorsi alcuni reporter dei siti web e Sasha Romanova hanno lasciato il paese ma continuano a lavorare. E Romanova scrive dunque questo pezzo a pagina 16 sulla stampa, nel quale racconta innanzitutto di quello che è successo. Le redazioni delle nostre due riviste online che sono state perquisite e colpite dagli agenti del Dipartimento delle Indagini Finanziarie, e poi appunto i rischi con Lukashenko che vuole chiudere i giornali. E dall'altra parte, come si diceva, Giordano Stabile da Beirut, che racconta di questo film di propaganda firmato da Erdogan, nel quale il presidente celebra il programma di una Turchia allargata dalla Siria alla Libia fino all'Egeo. E quindi quest'idea della quale molto si è raccontato, di un presidente turco che mira quasi quasi a restaurare l'impero ottomano. Traffico. Mattino. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS se volete. E poi non vi ho ricordato, insomma ormai lo sapete, la diretta Facebook sulla pagina di 24 Mattino, il nostro account Instagram 24 Mattino e quello Twitter sempre 24 Mattino, e così ci chiamiamo e così si chiamano gli account, quindi abbastanza facile trovarci. E torniamo sulla scuola, oggi ne parleremo tanto, poi come vi dicevo ne parlerà anche Alessandro Milan, però è da questo che io voglio partire con Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Sindaco, buongiorno, benvenuto, eccoci. È con noi? No? Pronto, sì. Eccolo qua, oh, mi era sparito per un attimo. Allora, prima di tutto rendere onore, sindaco, un'iniziativa meritoria, perché da questi microfoni ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo detto: ma come si può riaprire le scuole il 14 settembre e poi richiuderle una settimana dopo per i seggi, per aprire i seggi per le elezioni amministrative e per il referendum? Ebbene, lei a Bergamo si è accordato col prefetto, si è organizzato col prefetto e qualcosa è riuscito a fare, mi è parso di capire, no? Sì, abbiamo trovato sedi alternative per far votare le persone il 20 e 21 di settembre, quindi liberando le scuole dall'onere di dover attrezzare i seggi, e quindi la metà degli elettori, il 50% dei seggi, si sposta in nuovi luoghi che sono i centri per la terza età. Io andrò a votare al Museo di Scienze Naturali, le sedi delle ex circoscrizioni, cioè luoghi di proprietà del comune che abbiamo attrezzato per essere le nuove sedi dei seggi elettorali. E in questo modo almeno la metà degli studenti potrà continuare a fare lo dico, voluto fare di più, ma sì. Gori, lo dico per i suoi colleghi eventualmente all'ascolto, è stato così difficile? No, è stato molto bravo il mio assessore Giacomo Angeloni, si è messo a lavorare e ha trovato una soluzione. Ha trovato i posti, cioè ha fatto scandagliare agli uffici. Noi speravamo di la cosa è diventata un po' più complicata perché pensavamo che questa potesse essere una soluzione provvisoria. Invece dal Ministero degli Interni attraverso la Prefettura è arrivata la richiesta che fosse definitiva o definitiva o niente. E quindi abbiamo dovuto correre per far stampare dal Ministero le etichette che si appiccicano sulle schede elettorali e che segnalano la nuova sede del Però siamo riusciti a fare anche quello. Perfetto. Immagino che sia una soluzione che poi a questo punto nulla sarà più come prima e quindi probabilmente questa soluzione potrebbe rimanere anche per il futuro e per future. Dovrà restare anche per il futuro. Perfetto. Senta, come l'ha gestita il governo secondo lei la questione della scuola, Gori? Male, posso dire male, perché sono mesi che si dice che questa è una priorità. Avremmo voluto poter riaprire le scuole anche sul finire dello scorso anno scolastico, come hanno fatto altri paesi, e non l'abbiamo fatto. Abbiamo detto va bene, però partiamo bene a settembre. E invece mancano 15 giorni e le incognite sono ancora moltissime, perché ancora non sappiamo quando arrivano i banchi, non sappiamo come finirà la questione del trasporto pubblico. In molte scuole mi dicono c'è ancora un problema di sistemazione delle aule, che per esempio questo è un problema che invece a Bergamo abbiamo risolto, senza bisogno di dover andare a cercare luoghi esterni e quindi affittare spazi in più. Ogni giorno cambia la linea sulle mascherine, stamattina leggiamo sui giornali che si potrà togliere la mascherina in classe. Io francamente non capisco perché, perlomeno per i ragazzi più grandi mi sembrava una misura di protezione non così fastidiosa, era una difesa in più, ma soprattutto secondo me è molto incerta la determinazione di quello che può succedere nel momento in cui dovesse esserci un caso sospetto. È quello che personalmente oggi Gori, oggi Gori abbiamo letto in rassegna stampa, leggevo poco fa in rassegna stampa il giornale che raccontava di questa scuola di Verbania che è partita con dei corsi di aggiornamento professionale, in sostanza è un istituto tecnico, e che alla presenza di una persona che risultava positiva al Covid ha dovuto chiudere tutto immediatamente. Questo, se dovesse andar così, diventa un problema. Succederà dappertutto, perché la procedura giustamente è quella che se c'è un caso ovviamente può essere importato, nel senso che un bambino può essere stato a contatto con un genitore, con un amico fuori positivo, ovviamente dal momento in cui è sospetta la sua positività si deve ovviamente fermare, in isolamento fiduciario la sua famiglia, vanno fatti i tamponi, se l'esito di questo tampone è positivo va messo in quarantena tutta la classe e va fatto il tampone a tutta la classe. Ora, i tempi per quelli che conosciamo tra il momento in cui si prenota il tampone e sia l'esito del tampone sono tali da paralizzare qualunque scuola. È per questo che i pediatri bergamaschi proprio ieri hanno lanciato un appello che è quello per avere a disposizione i test rapidi. Sono quelli, per intenderci, che vengono usati in questi giorni a Fiumicino per coloro che rientrano dai paesi. Sono quelli con la puntura sul dito, Gori. Esattamente, e che danno un esito in pochi minuti. Allora questa cosa potrebbe davvero cambiare, perché potremmo escludere anche soltanto la possibilità che in classe ci siano altri casi positivi ed evitare di bloccare per giorni l'attività didattica. È una cosa secondo me molto importante. È vero che questi test non hanno l'accuratezza, la certezza dei tamponi, ma quasi. Però ti danno un'idea importante, insomma. Cioè hanno una specificità del 99%, per cui mi sembra comunque siano strumenti molto, molto affidabili. Anziché metterci giorni per sapere se quel bambino o in quella classe c'è un positivo, ci si metterebbe pochi minuti, capite che fa veramente la differenza. Ascolti Gori, oggi pomeriggio alle 16, proprio a proposito di scuola, ma non solo di quella in realtà, come sa ci sarà la conferenza, non so se unificata, se ci siete anche voi i sindaci, però per parlare del trasporto pubblico locale, e il tema è questo: portare la capienza massima degli autobus all'80%. Ora, mi permette di esprimere qualche perplessità su come si possa controllare una capienza all'80%? No, adesso la capienza all'80% si calcola su un numero, cioè ogni no, è chiaro, no, questo mi è chiaro, questo mi è chiaro, però come lo fai, lo fai, come lo fai tecnicamente, no? Il problema è che ho l'impressione che siccome su altri fronti si è in forte ritardo nel determinare le soluzioni, distanziamento nelle classi, per l'uso delle mascherine che qualcuno non vuole, eccetera, allora si va a stirare, ad allargare la coperta da quel lato lì, cioè dal lato del trasporto pubblico. Noi siamo partiti con una capienza al 25% nel momento in cui era più, ovviamente l'epidemia era più forte, poi siamo arrivati al 50%, adesso il CTS sembra che sia orientato sul 75%, gli enti locali chiedono l'80%. A parte appunto il fatto che sarà difficile controllare questa cosa. No, ma dico Gori, l'80% vuol dire l'autobus pieno, cioè è un'italianata, se mi consente di dirla anche così. A me sembra così. Onestamente anche a me sembra così. Oltretutto, ripeto, quando ci saranno 100 ragazzi alla fermata del pullman che vogliono salire, come si fa in quel momento, senza perdere 10 minuti per contarli, a fare in modo che salgano quelli che saturano la capacità dell'80% e non di più? Chi c'è lì a dirgli ragazzi non salite più perché il pullman è pieno? Insomma, a me sembra che rischiamo di scaricare sul trasporto pubblico le mancanze di sugli altri. Ma voi potreste farla, voi potreste farla una cosa di questo genere? Bergamo potrebbe farla, magari con dei contapersone o cose di questo genere? Pensi Io di poterla attrezzare? All'agenzia di mobilità e alla nostra azienda di trasporto pubblico, cioè a dotarsi di sistemi di contapersone e di una segnalazione automatica, cioè quando si arriva alla capienza determinata si accende una luce rossa o c'è una voce che preregistrata che dice stop, non può più salire nessuno. Detto questo, io penso che lì avremo dei problemi. La stima qualche giorno fa, alla luce delle previsioni fatte dalle scuole in ordine agli scaglionamenti, gli orari eccetera eccetera e alla didattica a distanza, era che mancassero in provincia di Bergamo, mancasse il trasporto pubblico per 15.000 ragazzi, cioè 15.000 ragazzi in più di quelli che i mezzi potevano trasportare. Tant'è che io ho rilanciato un appello ai dirigenti scolastici delle scuole superiori, perché non tutti avevano ben capito l'entità del problema, e infatti lo scaglionamento auspicato al 50% tra le 8 e le 10 non era nei numeri che avevamo sotto gli occhi, cioè c'erano molti più ragazzi in ingresso alle 8 di quelli previsti alle 10. Spero che questo appello sia raccolto, perché almeno quello consentirebbe di recuperare un po' la situazione. Le cose. La ringrazio, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, poi ci risentiamo per parlare anche magari un po' di politica nelle prossime settimane. Grazie Giorgio Gori. GR24, ci ritroviamo tra un attimo, avremo la ministra Bonetti, avremo il presidente dell'Abruzzo, ma soprattutto un nuovo appuntamento con Paolo Mieli alle 8:15. A tra poco. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.